ad alta voce. Maddalena Crippa legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Come un branco di segugi, dopo aver inseguita invano una lepre, tornano mortificati verso il padrone coi musi bassi e con le code ciondoloni, così in quella scompigliata notte tornavano i bravi al palazzotto di Don Rodrigo. Egli camminava innanzi e indietro al buio per una stanzaccia disabitata dell'ultimo piano che rispondeva sulla spianata. Ogni tanto si fermava, tendeva l'orecchio, guardava dalle fessure delle imposte interlate, pieno di impazienza e non privo di inquietudine, non solo per l'incertezza della riuscita, ma anche per le conseguenze possibili, perché era la più grossa e la più arrischiata a cui il brav'uomo avesse ancora messo mano. S'andava però rassicurando col pensiero delle precauzioni prese per distruggere gli indizi, se non i sospetti. In quanto ai sospetti, pensava, me ne rido. Vorrei un po' sapere chi sarà quel voglioso che venga quassù a vedere se c'è o non c'è una ragazza. Venga, venga quel tanghero, che sarà ben ricevuto. Venga il frate, venga. La vecchia? Vada a Bergamo la vecchia. La giustizia? Poh, la giustizia. Il podestà non è un ragazzo, né un matto. E a Milano? Chi si cura di costoro a Milano? Chi gli darebbe retta? Sono come gente perduta sulla terra, non hanno neanche un padrone, gente di nessuno, via, via, niente paura. Come rimarrà Attilio domattina? Vedrà, vedrà, si o focciarle o fatti. E poi, se mai nascesse qualche imbroglio, che so io, qualche nemico che volesse cogliere quest'occasione, anche Attilio saprà consigliarmi. C'è impegnato l'onore di tutto il parentado. Ma il pensiero sul quale si fermava di più, perché in esso trovava insieme un acquietamento dei dubbi e un pascolo alla passion principale, era il pensiero delle lusinghe, delle promesse che adopererebbe per abbonire Lucia. Avrà tanta paura di trovarsi qui, sola, in mezzo a costoro, a queste facce che il viso più umano qui sono io. Perbacco, che dovrà ricorrere a me, toccherà a lei a pregare, e se prega. Mentre fa questi bei conti, sente un calpestio. Va alla finestra, apre un poco, fa capolino, son loro. E la bussola? Diavolo, dov'è la bussola? 3, 5, 8, ci sono tutti, c'è anche il griso. La bussola non c'è. Diavolo, diavolo, il griso me ne renderà conto. Entrati che furono, il griso posò in un angolo d'una stanza terrena il suo bordone, posò il cappellaccio e il san rocchino e, come richiedeva la sua carica, che in quel momento nessuno gli invidiava, salì a render quel conto a Don Rodrigo. Questo l'aspettava in cima alla scala e, vistolo apparire con quella goffa e sguaiata presenza del birbone deluso, ebbene, gli disse o gli gridò: signore Spaccone, signor capitano, signor lascia fare a me? L'è dura, rispose il griso, restando con un piede sul primo scalino, l'è dura di ricevere dei rimproveri dopo aver lavorato fedelmente e cercato di fare il proprio dovere e arrischiata anche la pelle. Com'è andata? Sentiremo, sentiremo, disse Don Rodrigo e s'avviò verso la sua camera, dove il griso lo seguì e fece subito la relazione di ciò che aveva disposto, fatto, veduto e non veduto, sentito, temuto, riparato, ella fece con quell'ordine e con quella confusione, con quella dubbiezza e con quello sbalordimento che dovevano per forza regnare insieme nelle sue idee. «Tu non hai torto e ti sei portato bene», disse Don Rodrigo. «Hai fatto quello che si poteva, ma che sotto questo tetto ci fosse una spia. Se c'è, se lo arrivo a scoprire, e lo scopriremo se c'è, te l'accomodo io. Ti so dir io, Griso, che lo concio per il dì delle feste». «Anche a me, signore», disse il Griso, «è passato per la mente un tal sospetto. E se fosse vero, se si venisse a scoprire un birbone di questa sorte, il signor padrone lo deve mettere nelle mie mani. Uno che si fosse preso il divertimento di farmi passare una notte come questa, toccherebbe a me a pagarlo. Però da varie cose m'è parso di poter rilevare che ci deve essere qualche altro intrigo che per ora non si può capire. Domani, signore, domani se ne verrà in chiaro. Non siete stati riconosciuti almeno?» Il Griso rispose che sperava di no, e la conclusione del discorso fu che Don Rodrigo gli ordinò per il giorno dopo tre cose che colui avrebbe saputo ben pensare anche da sé: spedire la mattina presto due uomini a fare al console quella tale intimidazione che poi fu fatta, come abbiamo veduto; due altri al casolare a far la ronda per tenerne lontano ogni ozioso che vi capitasse e sottrarre ad ogni sguardo la bussola fino alla notte prossima, in cui si manderebbe a prenderla. Giacché per allora non conveniva fare altri movimenti da dar sospetto. Andar poi lui e mandare anche altri dei più disinvolti e di buona testa a mescolarsi con la gente per scovar qualcosa intorno all'imbroglio di quella notte. Dati tali ordini, Don Rodrigo se ne andò a dormire e ci lasciò andare anche il Griso, congedandolo con molte lodi dalle quali traspariva evidentemente l'intenzione di risarcirlo degli improperi precipitati coi quali lo aveva accolto. «Va a dormire, povero Griso, che tu ne devi aver bisogno, povero Griso. In faccende tutto il giorno, in faccende mezza la notte, senza contare il pericolo di cader sotto l'unghie dei villani o di buscarti una taglia per rapto di donna onesta, per giunta di quelle che hai già addosso, e poi esser ricevuto in quella maniera. Ma così pagano spesso gli uomini. Tu hai però potuto vedere in questa circostanza che qualche volta la giustizia, se non arriva alla prima, arriva o presto o tardi anche in questo mondo. Va a dormire per ora, che un giorno avrai forse a somministrarcene un'altra prova e più notabile di questa». La mattina seguente il Griso era fuori di nuovo in faccende quando Don Rodrigo si alzò. Questo cercò subito del conte Attilio, il quale, vedendolo spuntare, fece un viso e un atto canzonatorio e gli gridò: «San Martino!» «Non so cosa vi dire», rispose Don Rodrigo arrivandogli accanto. «Pagherò la scommessa, ma non è questo quel che più mi scotta. Non v'avevo detto nulla, perché lo confesso, pensavo di farvi rimanere stamattina. Ma basta, ora vi racconterò tutto. Ci ha messo uno zampino quel frate in quest'affare», disse il cugino, dopo aver sentito tutto con più serietà che non si sarebbe aspettato da un cervello così balzano. «Quel frate», continuò, «con quel suo fare di gatta morta e con quelle sue proposizioni sciocche. Io l'ho per un drittone e per un impiccione, e voi non vi siete fidato di me, non m'avete mai detto chiaro cosa sia venuto qui a impastrocchiarvi l'altro giorno». Don Rodrigo riferì il dialogo. «E voi avete avuto tanta sofferenza?» esclamò il conte Attilio. «E l'avete lasciato andare come era venuto? Che volevate, che io mi tirassi addosso tutti i cappuccini d'Italia?» «Non so», disse il conte Attilio, «se in quel momento mi sarei ricordato che ci fossero al mondo altri cappuccini che quel temerario birbante. Ma via, anche nelle regole della prudenza manca la maniera di prendersi soddisfazione anche d'un cappuccino. Bisogna saper raddoppiare a tempo le gentilezze a tutto il corpo, e allora si può impunemente dare un carico di bastonate a un membro. Basta, ha scansato la punizione che gli stava più bene. Ma lo prendo io sotto la mia protezione e voglio aver la consolazione di insegnargli come si parla coi pari nostri. Non mi fate peggio, fidatevi una volta che vi servirò da parente e da amico. Cosa pensate di fare? Non lo so ancora, ma lo servirò io di sicuro, il frate. Ci penserò e il signor Conte Zio del Consiglio Segreto è lui che mi deve fare il servizio. Caro signor Conte Zio, quanto mi diverto ogni volta che lo posso far lavorare per me, un politicone di quel calibro. Domani l'altro sarò a Milano e in una maniera o in un'altra il frate sarà servito. Lo scompiglio di quella notte era stato tanto clamoroso. La sparizione di tre persone da un paesello era un tal avvenimento che le ricerche, e per premura e per curiosità, dovevano naturalmente essere molte e calde e insistenti. E d'altra parte, gli informati di qualche cosa erano troppi per andar tutti d'accordo a tacer tutto. Perpetua non poteva farsi vedere sull'uscio che non fosse tempestata da quello o da quell'altro perché dicesse chi era stato a far quella gran paura al suo padrone. E Perpetua, ripensando a tutte le circostanze del fatto e raccapezzandosi finalmente che era stata infinocchiata da Agnese, sentiva tanta rabbia di quella perfidia che aveva proprio bisogno di un po' di sfogo. Non già che andasse lamentandosi col terzo e col quarto della maniera tenuta per infinocchiare lei, su questo non fiatava. Ma il tiro fatto al suo povero padrone non lo poteva passare affatto sotto silenzio. E soprattutto che un tiro tale fosse stato concertato e tentato da quel giovane da bene, da quella buona vedova, da quella madonnina infilzata. Don Abbondio poteva ben comandarle risolutamente e pregarla cordialmente che stesse zitta. Lei poteva bene ripetergli che non faceva bisogno di suggerirle una cosa tanto chiara e tanto naturale. Certo è che un così gran segreto stava nel cuore della povera donna come in una botte vecchia e mal cerchiata un vino molto giovine che grilla e gorgoglia e ribolle e se non manda il tappo per aria gli geme all'intorno e vien fuori in schiuma e trapela tra doga e doga e gocciola di qua e di là tanto che uno può assaggiarlo e dire un dipresso che vino è. Gervaso, a cui non pareva vero d'essere una volta più informato degli altri, a cui non pareva piccola gloria l'avere avuta una gran paura, a cui per aver tenuto di mano a una cosa che puzzava di criminale pareva d'essere diventato un uomo come gli altri, crepava dalla voglia di vantarsene. E quantunque Tonio, che pensava seriamente alle inquisizioni, ai processi possibili e al conto da rendere, gli comandasse copugni sul viso di non dir nulla a nessuno, pure non ci fu verso di soffocargli in bocca ogni parola. Del resto Tonio, anche lui, dopo essere stato quella notte fuori di casa in ora insolita, tornandovi con un passo e con un sembiante insolito e con un'agitazione d'animo che lo disponeva alla sincerità, non poté dissimulare il fatto a sua moglie, la quale non era muta. Chi parlò meno fu Menico, perché appena ebbe raccontata ai genitori la storia e il motivo della sua spedizione, parvi a questi una cosa così terribile che un loro figliuolo avesse avuto parte a buttare all'aria un'impresa di Don Rodrigo che quasi quasi non lasciaron finire al ragazzo il suo racconto. Gli fecero poi, subito, i più forti e minacciosi comandi che guardasse bene di non far neppure un cenno di nulla. E la mattina seguente, Non parendo loro d'essersi abbastanza assicurati, risolvettero di tenerlo chiuso in casa per quel giorno e per qualche altro ancora. Ma che essi medesimi poi, chiacchierando con la gente del paese e senza voler mostrare di saperne più di loro, quando si veniva a quel punto oscuro della fuga dei nostri tre poveretti e del come e del perché e del dove, aggiungevano, come cosa conosciuta, che si erano rifugiati a Pescarenico. Così anche questa circostanza entrò nei discorsi comuni. Con tutti questi brani di notizie messi insieme, cuciti come s'usa e con la frangia che ci si attacca naturalmente nel cucire, c'era da fare una storia di una certezza e di una chiarezza tale da esserne pago ogni intelletto più critico. Ma quella invasione dei bravi, accidente troppo grave, troppo rumoroso per essere lasciato fuori e del quale nessuno aveva una conoscenza un po' positiva, quell'accidente era ciò che imbrogliava tutta la storia. Si mormorava il nome di Don Rodrigo. In questo andavano tutti d'accordo. Nel resto tutto era oscurità e congetture diverse. Si parlava molto dei due bravacci che erano stati veduti nella strada sul far della sera e dell'altro che stava sull'uscio dell'osteria. Ma che lume si poteva ricavare da questo fatto così asciutto? Si domandava bene all'oste chi era stato da lui la sera avanti, ma l'oste, a dargli retta, non si rammentava neppure se avesse veduto gente quella sera e badava a dire che l'osteria è un porto di mare. Soprattutto confondeva le teste e disordinava le congetture quel pellegrino veduto da Stefano e da Carlandrea, quel pellegrino che i malandrini volevano ammazzare e che se n'era andato con loro o che essi avevano portato via. Cos'era venuto a fare? Era un'anima del purgatorio, comparsa per aiutare le donne. Era un'anima dannata ad un pellegrino birbante impostore che veniva sempre di notte a unirsi con chi facesse di quelle che lui aveva fatte vivendo. Era un pellegrino vivo e vero che coloro avevano voluto ammazzare per timor che gridasse e destasse il paese. Era, vedete un po' cosa si va a pensare, uno di quegli stessi malandrini travestito da pellegrino. Era questo, era quello, era tante cose che tutta la sagacità e l'esperienza del Griso non sarebbe bastata a scoprire chi fosse, se il Griso avesse dovuto rilevar questa parte della storia da discorsi altrui. Ma, come il lettore sa, ciò che la rendeva imbrogliata agli altri era appunto il più chiaro per lui, servendosene di chiave per interpretare le altre notizie raccolte da lui immediatamente o col mezzo degli esploratori subordinati, poté di tutto comporre per Don Rodrigo una relazione bastantemente distinta. Si chiuse subito con lui e l'informò del colpo tentato dai poveri sposi, il che spiegava naturalmente la casa trovata vuota e il sonare a martello, senza che facesse bisogno di supporre che in casa ci fosse qualche traditore, come dicevano quei due galantuomini. L'informò della fuga, e anche a questa era facile trovarci le sue ragioni: il timore degli sposi colti in fallo o qualche avviso dell'invasione dato loro quando era scoperta il paese tutto a suo quadro. Disse finalmente che si erano ricoverati a Pescarenico. Più in là non andava la sua scienza. Piacque a Don Rodrigo l'esser certo che nessuno l'aveva tradito e il vedere che non rimanevano tracce del suo fatto. Ma fu quella una rapida e leggera compiacenza. «Fuggiti insieme!» gridò. «Insieme! E quel frate birbante, quel frate!» La parola gli usciva rantolata dalla gola e smozzicata tra denti che mordevano il dito. Il suo aspetto era brutto come le sue passioni. Quel frate me la pagherà. Griso, non son chi sono, voglio sapere, voglio trovare questa sera, voglio sapere dove sono, non ho pace. A Pescarenico, subito, a sapere, a vedere, a trovare. Quattro scudi subito e la mia protezione per sempre. Questa sera lo voglio sapere. E quel birbone, quel frate. Il Griso di nuovo in campo. E la sera di quel giorno medesimo poté riportare al suo degno padrone la notizia desiderata. Ed ecco in quale maniera. Maddalena Crippa ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.